ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. L'ultima volta abbiamo parlato della tragica sorte di Baldr, il radioso dio della mitologia nordica, ucciso dall'astuzia del perfido Loki. Anche oggi resteremo in quei freddi climi, incontrando un dio meno bello e romantico, ma sicuramente molto simpatico, Thor, forse il più noto fra gli dei dell'Olimpo vichingo. In Thor tutto è esagerato. È un pezzo d'uomo con la barba rossa e i bicipiti incredibilmente possenti. Abita in un palazzo di 540 sale, ripeto 540, e ha un appetito sovrumano. Ogni giorno infatti mangia un bue e 8 salmoni, che innaffia con almeno 3 barili di idromele. Per passare il tempo se ne va fra le nubi su un carro tirato da 2 caproni, facendo un gran baccano. Ama le risse e, appena può, si accapiglia con i giganti, suoi eterni nemici. Per quanto burbero e irascibile, Thor non conosce malizia e le sue collere spariscono senza lasciare traccia. Aiuta i contadini facendo crescere il grano nei campi e provvedendo il fieno per il bestiame. Aiuta i pescatori riempiendo le reti di pesci. È lui che manda la rugiada e la pioggia, il sole e il vento. È lui che rende le donne fertili e gli uomini forti. Insomma, a dispetto del suo caratteraccio, è un dio benevolo che protegge gli uomini durante la vita e anche da morti. Cura infatti che la pace dei defunti non venga disturbata. Thor ha 3 oggetti magici. Una cintura che raddoppia la sua già notevole forza. Un paio di guanti di ferro con cui brandire il martello e il suo famoso martello, il mirabolante Mjolnir, che Thor usa come ascia da getto. Mjolnir ha 2 proprietà. Sprizza lampi quando solca l'aria e, come un boomerang, torna al suo padrone dopo essere stato lanciato. I vichinghi amavano il rosso lanciatore di martello, al punto da definirsi popolo di Thor. Il dio rozzo ma buono era protagonista di innumerevoli storie e spesso la sua figura era scolpita su mobili e oggetti, sulle gambe degli scanni, sulle ruote, sulle colonne dei letti, sulle navi, nei gioielli. Tra gli irlandesi poi era talmente popolare che le famiglie nobili sostenevano di discendere direttamente da lui. Thor è il prototipo di molti personaggi della letteratura colta e popolare, della favola, del fumetto, dal gigante buono a Pantagruele, al morgante di Pulci a Obelix. Sarebbe bello se le divinità fossero tutte come lui, burbere ma bonarie, ingenue, pronte a soccorrerci. Una specie di Babbo Natale in versione vichinga. Quanto ci farebbe comodo in questo difficile momento. Speriamo che, insieme con la neve e il freddo che in questi giorni calano giù dal nord, venga anche il buon Thor. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof, ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.